Ciao Fabio, ciao, ti ascolto pio proprio. Smettere, basta, ma già va bene così per me per adesso. Fabio, ti ascolto pio, ciao. Fabio, per adesso e per sempre, non ci riuscirete mai e poi mai, sottolineatevelo, non esiste, non avete attrezzature, non avete apparecchiature, non avete antenne. Io posso anche tenere l'amplificatore spento, lavoro solo con la tre elementi, capito? Con un boom da 12 metri e siete tutti colpiti e affondati. Ma non mi interessa fare questi giochi di Caruso, li facevo 30 anni fa. Sempre. Antonio, prendi questa equipa di cui usiamo per trivellare, per cercare l'acqua a 100 metri, vai, che mi alzo l'antenna. Sì, alza. Sì, cazzo, devo cercare l'acqua. Guarda che l'unica volta che ho trattato a Claudio è stato via dicendo, è la verità. E mi facevamo le gare, allora che passo, e lui si aspettava che io avevo il BMW 2001, l'MK3, quando lo siamo due per volte ha detto Alessio ti ha crepato, e poi si è incazzato Claudio quella volta, ma ci ripetevamo forte. Ora mi ha cambiato casa e va a far culo a un certo punto, però la zona di Virenzino, la verità, era veramente bella, perché riusciva a parlare con Cagliari, con Villacido, eccetera, eravamo pochi ma buoni, eravamo io, Claudio, Angelo Delfino e coso, come si dice, Gianni Rovessore, gli unici, altra gente non riusciva a uscire fuori da Sassari, addirittura natura di Bono, Valzini, vabbè, Claudio è molto forte Valzini, molto molto più forte di me addirittura. Poi vabbè, c'è anche a Tempio arrivavo da lì, ma qui a Tempio ero manco molto, ci arrivo, non sono d'altro. Era una zona bella, la verità, era bassa ma era bella, però a me mi sembra molto bravo, sai chi era? Roberto, quello che che lavora in banca, che non mi ricordo se non mi è attivo, Claudio già se lo ricorda. Poi mi sembra mudato come niente, cazzo, un'antenna Firenze 2, piccola. A quei tempi di originale proprio, mi sono provato come quando voleva a me, in qualsiasi posto, era l'unico palazzo che era molto alto di fronte a me. Ma no, aspetta un attimino che mi è venuta in mente una cosa. Oh Claudio, manda un messaggio col tuo nome ad Antonello, che gli è caduto il telefono e non c'è più il tuo numero, gli ho detto di mandarti quel video, ma nulla, non c'è il tuo numero. Ah, non è caduto il telefono, gli ho cambiato i telefoni, gli ho cambiato 4. Quindi Claudio, se mi mandi il numero di telefono tuo su WhatsApp, aspetta, 371, ma non me la metto più, se lo posso anche dire qua, se aspetti 2 minuti te lo dico e mi fai uno squillo su WhatsApp, lì su quel telefonino, poi dopodiché ti mando il filmato che mi ha mandato Fabio. Aspetta un attimo, ti dico il numero, che non lo ricordo, manco a memoria. Ah, io ancora c'ho il telefono spento, io no, c'ho 60 anni, no, non c'ho l'età vostra, io ho bisogno di riposare. Sono entrato per spegnere la radio e mi state attaccando, via. Ma tu in che zona abiti, Fabio? In che zona abiti? Ma non è solo un'antenna sulla finestra, non la voglio spostare, capito? Non la voglio mettere lì. Le questioni di condominio, di casini, eccetera, eccetera, allora per questi di là, sul corpo qualcuno fa qualcosa. Sta parlando? Ehi! Sì. Qua non arriva! C'è un'antenna nella finestra, dove vuoi che ti arrivi a te? Sì, ma in che zona abiti? Dove c'è lume sole? Lume sole, dove vuoi andare? Lume sole abitava Antonio Grode, ha preso tante di quelle battoste. Che zona di lume sole abiti? Non so dove abita, a fianco a quello che c'aveva il camion che ti ha picchiato, ti ricordi tanto tempo fa? Che era l'animatore. Ti hai capito, non c'è bisogno di dire il nome, lui abita proprio attaccato a quello. Mi ha picchiato a me. Come non mi ha mai colto nessuno? Ma già 60 anni, ma colpo non ha mai abbiato nessuno, né moralmente né fisicamente. Chi è questo? Ah, ascolta, che abitava lì al Rovesole, che c'è il camion, se lo ricordi, il camion rosso, che, era, che è diventato poi l'animatore, in quella quadrato, di fronte a Daniele Danone, te lo ricordo Daniele Danone, che c'era Mantova con la vince, addirittura la lampada in Kiwi. Poi vicino a lui ci abitava anche Giampaolo Mandrake, addirittura un periodo. Vicino a Rioveda, lei mi ce l'ha presente, parallelo. Ma vicino a Polverone abiti. Proprio, attaccato a Polverone. Ci sei arrivato. Nei mani a pancaggio, prima di arrivi arrivo io, Fabio. Abbiamo fatto già prove lì da via Bardini. Di via Bardini, allora, invece di mai sole. E abbiamo fatto prove. No, sei troppo chiuso. Non c'è competizione. No, ma infatti non è questione solo di attrezzatura, come dici tu, no? È una questione di posizione. Io faccio antenne e ti posso garantire che spesso i due palazzi a fianco, i 35 metri, tu metti la chiamata televisiva, te la vai a misurare e capisci che devi cambiare tipo l'antenna, capito? È una questione di posizione. A volte bastano 10 metri che ti cambia il mondo. 10 metri, però lo devi superare lì 10 metri. Perché lì c'è tutta praticamente la parte bassa, non sei nella parte alta di Nuove Sole, tu sei in mezzo, perché quella zona lì è in mezzo, quindi di superare tutta la parte alta del quadrato, tu sei sotto. Sì, infatti, ma se posso mantenere dall'altra parte, sento meglio chi è giù, e mi sentono meglio laggiù, capito? Vado di valle, anche se non metto sul petto, vado di valle e mi sento un po' tutto, mentre altri dicono che mi sentano, non ho intenzione di fare gli ex. E poi devo dirti che ho parlato con Morta qua, una ventina di anni fa, con 17 watt del Connex, figurati, fai il terrazzino. No, non è una zona abbastanza aperta, è una zona abbastanza aperta anche perché, che abbiamo citato prima, per non fare nomi, aveva l'antenna nel poggiolo e copriva tutto sia il nord che il sud di Sardegna. Sto parlando però di frequenze amatoriali e non di 27, mentre io da qua riesco ad arrivare in diretta anche a Oristano in VHF, senza usare nessun ponte, capito? E qua in 27 tutta la parte della zona di Campeda la copro tranquillamente, ma a parte quella che ce l'ho, ma vado bene per Porto Torres, per Alghero. L'unica parte che non posso mai arrivarci, perché c'è la parte proprio lì di Monte Bianchino, quella zona lì, Filigheddu che mi copre la zona per il mare, però ci arrivo, Castel Sardo arrivo, a Santa Teresa arrivo, ma non certo come può arrivare uno dal Latte Dolce, da quelle zone lì che ce l'ha davanti il mare, capito? O da lì punti. È quello l'unico punto che arrivo, ma non arrivo come quelli della Bassa Valle, ma per il resto quelli della Bassa Valle non fanno quello che faccio io da quassù. È tutto questione di posizione e apparecchiature. Perché se non hai antenne e apparecchiature è un controsenso avere una buona posizione. Questo è il mio parere. Vabbè, vi ho rotto le balle, continuate, divertitevi, scazziate che io chiudo tutto e vado a vedermi. Ciao baci. Ciao a tutti, a domani. Claudio, se sei all'ascolto, ci vediamo domani. Ciao Gabriele, ciao, ci vediamo domani, dai, sono già d'accordo con tuo padre. Vai Tino, non lo senti a Fabio e tu? Ma lo ascolto Santiago 2, radio quasi inesistente, dai. Vabbè, comunque ciao Fabio, ti ascolto, ma più, Saluto anche a Claudio D'Amuro, se non mi sbaglio. Ciao Claudio. Ciao a tutti e due, allora, anzi, sì, ciao Claudio, divertitevi, buon ciao da Amica, e ci siamo alle prossime, Lello. Ciao Claudio, ciao anche l'altro Claudio, saluto di quelli di tutti e due, ci sentiamo domani. E allora Tino. Ciao. Sono a posto, sì. Scusati, a proposito, ho trovato ad Angelo l'altro giorno, mi ha mandato i saluti, da molto ci sento a vederlo. Antonio. Ehi, Angelo, chi Delfino? E io. Sono da poco non lo vedo. Figurati. C'è anche Balacchia ancora. Ti ho detto, va a piazza di Balacchia. No, già Dio non vuole, mi ha detto. E quindi, è che dovevo fargli. C'ha la 87 come ce l'ho io, me. Solo che lui c'è modello vecchio, io c'è invece modello nuovo. Sì, già me l'ha detto. No, non sta bene di nuovo, non è in forma, capito? Grazie per Betti, più non ci siamo divertiti con Angelo, io e tu e Angelo. E la mattina di invaria, il giorno che mi hai passato, che poi sei passato di poco, perché io ero sotto, tu ci avevi il 2001, ma io ero senza lineare, io c'avevo solo il 430, mi sembra che stavo usando solo. Ma quando è arrivato l'UDL 922, e hanno bruciato un po' con i baracchini e le antenne, cazzo, ma ecco Antonio Reventi, mi Fabio, non venire sotto casa col portatile, perché un giorno è venuto Antonio Reventi a prendermi, non so se te lo ricordi, tassista, mi ha detto, vieni qua, quando sono qui sotto di vostro, ti chiamo al baracchino, io ho detto, mi sto preparando Antonio, fammi. Io ero col 430 attaccato al TL 922, minimo ci avevo più di un kilowatt, e da sotto mi fa, mica sono sotto, e io senza guardare che c'era un amplificatore, ho schiacciato, gli ho detto, sto scendendo Antu, sto scendo, e non vira, Antu, e io cagio, guarda era sotto il sedile, controlla un fiaco di bruciato, ho detto, ma cosa dice, ci niente la macchia, cazzo, c'è colato lo baracchino, mi l'hai copiato. Ma volevo vedere un anticitofono, mica sovramodulati col portatile, che poi ci tengo al mio Alan 38 guai, mi asciuglierlo, per carità, e il libato non l'hanno mai aperto, ma neanche guardato l'hanno, ci tengo perché è proprio il cuoricino della licenza, poverino. Io mi ricordo quando Angelo Delfino veniva sotto casa mia, perché ci abitava il padre, con la regatta e con l'antennone, a te ne Antonello, dice, ho combinato con Angelo Antonello, io. E ancora oggi Antonello, io ce l'ho su WhatsApp, Antonio, in pensione, adesso il figlio che c'ha il taxi, Alessandro, ci troviamo spesso in Viale Dante. Ma mi fa di morire, non menta che mi devi comprare sempre un baracchino, ma vai a rompermi le balle, dico già baracchino, poi c'è te che ti sei buttato sotto un gas, allora già dice a mio, ma mi trovi niente attaccato, sempre me lo dice che un fumo vero anche sa macchina è scoppiato, ha scoppiato, glielo ho scoppiato, incendiato glielo. Vai Tino. Mi ricordo la tua storia, adesso pensandoci, mi avevi raccontato tempo fa. Cazzo, ma le risate ci abbiamo fatto il giorno. Attraverso tu, cazzo, non c'hai baracchino in macchina. E una giornata a casa ne aveva volato uno, mi pare, vecchio gadrodo, infatti l'aveva nascosto dentro il coso, dentro il cruscotto, perché prima ce l'aveva in mezzo tra un sedile e l'altro, ci aveva un ultimo per tre. Cazzo, ha pigliato un fuoco, si è incendiato, sei giusto. E sempre me lo dice che. Già mi ricordo la storia. E se no con Italo, con Tottano, una volta che vera goccia in macchina a Matteci, e noi eravamo tutti lì a casa di Italo, poi siamo c'eri tu anche, Gavino, eravamo tutti lì, e era pronto Coso a prenderlo e dice che non sentiva più niente, che la via di giusto con goccia dell'UBL. Adesso, vabbè, non è che mi ricordo tutto in particolare, però quei tempi erano belli, diciamo che ci siamo divertiti. Soprattutto io, andando e tornando da Sassi a Porto Torre Sestentino, ogni divertimento. Non ti lamentare, ti ho reso la vita, insomma, movimentata. E allora, recuperare un amico che rimaneva sempre a piedi e bucava la moto, cazzo. Andare. Uia, per carità, siete immaginate che io parlo alla radio dal 1975 e dall'87 in poi mi è cambiata la vita quando sono arrivato a Sassari, c'è un casino, per carità, che casino. Grazie, vabbè, io parlo dall'89, l'89 ho iniziato, anzi, in quei tempi lì erano bigli, dai. Lo ricordo di qua, quando si faceva la passeggiata in furgone, Claudio, Antonello, dopo Antonello ci passava cosa, Angelo Delfino, poi Angelo Delfino da Bausi, andiamo al Cumio. E poi poveraccio ci ha passato tutto il vento, ci ha passato Alessandro quel giorno, Gesuino Poggiano, tutti ci sono passati. Tutto il bambino di embriaghera, ogni arrivo, ogni embriaghera. Se parla col bar di Capra, se guai, Gesù Maria Gara, Fabio. Tu immaginate che io stavo in radio con Tino, con tutta c'era una greffa spettacolare, ci divertivamo a morire. Io stavo in radio sino alle 5, alle 6 del mattino. Alle 8 dovevo essere a Porto Torrese al lavoro, perché lavoravo all'Eliche. Quindi arrivi io molto tirato, va bene che non ho mai fatto un cazzo in vita mia, però siamo andati a lavorare. E quando rientravo alle 4:30 invece andavo a casa a riposarmi, non ci andavo a casa, no. Passavo la via Rezzeddu, io uscivo alle 4:30, alla Valleni che alle 5 era Sassari, non ho mai preso il pullman, io viaggiavo sempre con la macchina mia, mi fermavo in via Rezzeddu fino alle 8, alle 9, uia, Marlon Brando mio. Molte cose io li ho bello era, ma io mi ricordo che nel primo periodo che stavo lavorando ero americano addirittura, facevo Sassari Parau e quindi un po' che Marco ci accompagnava, Marco c'era 31, un po' che parlavo con Gavino, poi prendevo la macchina, attaccavo il baracchino in macchina e trovavo i classici camionisti che ci facevano compagnia. È stato un bel divertimento, Ehi, ti avete parlato in due con Fabio, ho sentito te. Sì. Però era un altro tipo di giostra. C'era molta gente, molti ragazzi, molte coppie, gente che faceva sesso al baracchino da mezzanotte in poi. Ti amo, ti voglio, ti prendo, ti tocco, Nadio Bizzicato, niente insomma, si andava avanti così, però un bel di soldi io ci ho buttato, in quei tempi ci ho buttato un bel di soldi, ma un bel, tu figurati io ci avevo i soldi per comprarmi la macchina, invece di comprarmi la macchina che mi ha comprato il PL922, 4.200.000 lire la marinotta, ragazzi, sono ancora biniente, per carità di Dio, lasciate perdere, non fate più queste cose che veramente è incredibile raccontarle, soldi buttati per niente. Sì, vabbè, cosa vuol dire, sono appassionato, due lì si conserva e poi insomma si fa regalino. E il cazzo ti regalino baffa goccia, baffa cingomma e boh. Infatti poi me ne sono pentito malamente perché sì, era una bella cosa, c'è tutte le foto delle stazioni radio che ho avuto, le serie radio che ho avuto, le radio che ho avuto, c'ho tutte le foto. Le facevo quando le compravo e me le conservavo, c'ho un album proprio di foto di tutte le radio che ho avuto. Quando le guardo dico ma che cazzo me l'ha fatto fare veramente. Cioè comprare un amplificatore in quei tempi 4.500.000, dove era buccia di gioco, guadagnavo i soldi perché mi sembra che allora mi avevano trasferito a Cagliari alla Saras, quindi facevo il trasfertista alla Saras perché stavamo costruendo il depuratore della Saras, quindi ero pagato molto molto bene, abbastanza, però buttare via i soldi così non è più fattibile oggi non è più fattibile assolutamente. Io quando compro una radio proprio mi faccio i conti veramente, credetemi. Prima non stavo lì a guardare, tu cosa ci devo? Io va me lo compro, amore me lo compro, sì. Ma no, guarda, mi conta fissa mesi, prima eri cazzo mi compro quella radio, bella Sì, domani, a meno che non ne hai veramente tanti. Ma se no non è più come prima, dai. Non è più come prima, va bene, comunque. mangiare, diciamo, queste tre zoccole mi stanno facendo incazzare. Allora sono rientrato qua. Chi c'è qua? Fabio, Antonello, Dino, poi. Vabbè, però devi dire una cosa, che prima ti invogliava anche a comprarle, perché c'era gente, c'era la voglia di volare, insomma, c'era la compagnia. Oggi effettivamente non c'è più nessuno, quindi siamo quattro gatti, uno dice va a cagare, cazzo, c'è un baracchietto del cacchio, cazzo, ma non attacco l'antenna, faccio quattro chiacchiere, va bene. Al contrario, quando invece io mi ricordo i tempi di fuoco, quando la croce iniziava a spuntare antenne da tutte le parti, e ti dovevi premuire, nel senso che sennò dovevi spattare a destra, a sinistra, avanti e indietro, quindi è logico che cercavi la, non dico la perfezione, ma almeno di tapparti le spalle, capito qua? Sì, ma io mi ricordo in quei tempi che c'era un appuntamento con mio padrino, Vittorio, e poi non mi ricordo se c'era qualcun altro, per parlare la notte a quest'ora con Villa Cidro in diretta, con Torre di Buzzi, che non è facile arrivare a Buzzi, attenzione, Buzzi è un fosso proprio nella bassa Anglona, e non è facile. E quindi ci mettevamo lì la Vittoria, cioè, Torre Buzzi, mi senti, ti crepo, ti faccio, Torre Buzzi. Praticamente che c'era la voltante, tom! Erano bei tempi. La massa per non fischiare i microfoni, Fabio, la prendevamo con i cavi, con le trecce attaccate alle brande dei letti, perché allora non c'erano quelle che ci sono adesso, no? Quelle ortopediche, c'erano le brande, quelle catarrette, attaccavamo i cavi per non fischiare il microfono alla rete del letto, cazzo. Una viaggio mai incendio a nonna. Io sembra quello che sia originale, perché la massa ce l'ho attaccata per questo fuoco. Cazzo, no, vabbè. Io oramai qua, questa è nata proprio come sarà la radio, io scusate, al nono piano avevo due stanze, quando sono morti i miei suoceri sono sceso qua, sono sceso in questa che è più grande, c'ha tre stanze da letto, una me l'ho presa io, ho fatto proprio a sala radio, l'ho fatta fare proprio come deve essere, c'ho tutto questa separata, la corrente è separata dalle altre stanze, c'ha salvavita a parte, c'ha tutte le prese industriali, quelle grandi, non quelle piccole a muro, capito, quelle grandi eccetera, quindi questa è fatta proprio come sala radio, ma prima le prese scoppiavano, saltava il contattore, capito, della gente a digoglio, questi baracchini, adesso non più, adesso è tutto diverso, capito, anche perché i contattori sono diversi, io non ho 3 kW, ho 4 kW e mezzo, ma prima con 3 kW era una lotta per la sopravvivenza, Fabio, capito? Ci divertivamo, ma c'erano anche un sacco di spese. Io cercavo di coprire quando arrivava la bolletta dell'Enel, me la prendevo, mi incazzavo con mia moglie e mia figlia, sempre con la piastra, il phone, sempre questa lavatrice, farò l'attino, invece ero io sempre con l'amplificatore attaccato, capito? Vai, Antonello. Vabbè, mi ricordo. Abbiamo fatto il muro di Berlino, la zona di Tabolazzi e la zona della Peloce, se ti ricordi. Ognuno per i cazzi suoi. Io con 600, tu con quelli che c'avevi, a parte Alghero l'ho fatto schiattare, cazzo, col chemoto, non ce n'era per nessuno. Col chemoto, con l'ingresso a pochi fatti, mando laterale, gnu, non riuscivo a modulare, cazzo. Tu immagini, in parte te l'avevo anche detto una volta, lo dico così in due parole. Sono entrato al lavoro, Fabio, forse l'unico giorno che non mi sono fermato, mi dovevo fermare, in via Rizzedo, era un venerdì, ero stanco molto perché avevo fatto un turno praticamente doppio, giù al produttore, cioè, no, ma vado a casa, cazzo, ho tirato dritto, arrivo sotto la casa, allora via Milano era diverso, per il fornitore ce n'era uno solo, cazzo, nel piazzale del rifornitore, ha giubito questo furgone, questa camionetta, era una camionetta, un deli era grigio, brutto, era tutto vecchio, con questo razzo sollevato, questa antenna che si muoveva, girava, e gli ho detto, cazzo, ragazzi, lui siamo in Vasco Radio, grazie, boh. Faccio il giro con la macchina, devo essere questi paracuri, conosciamo la mia macchina, allora io c'avevo la regatta, c'avevo nuova, o la Tempra, se non mi ricordo, forse la Tempra, al centro c'avevo l'antenna del baracchino, però era piccolina, un'antenna di quelle che vendevano, sai, quelle corte, tipo telefono, così. Se mi hanno messo appresso, sono abbassato il telescopio e mi hanno messo appresso, io ho parcheggiato e ho fatto il giro, nel frattempo che io stavo parcheggiando, loro sono entrati al cancelletto piccolino e sono posizionati nel portone giù sotto di casa. Io sono arrivato, buongiorno, Fender Dog, lì, sa dove abita Marti? Ma no, ho detto, mi sembra che non abiti qua, non lo so. Non lo so, guarda, io sono nuovo qui, perché a me non mi conoscevano, non sapevano dove abitavo. Diciamo, va bene, grazie. Grazie, guarda, di merda che ho fatto. Salvo a casa, dopo i 5 minuti, di nuovo il campanello. E chi era? Quello che abitava sotto al secondo piano, io abitavo al nono, allora ero nell'altra scala, al nono piano, lui abitava al secondo, ed era il postino Luigi Sana, poverino, che è quello che è morto a Predanieda, che si è sbattuto alla rotonda, quel postino lì, abitava qua il mio palazzo. E mi sono detto, chi è? Luigi Sana, dimmi lui, guarda che qua ci sono i colleghi che ti stanno cercando. Quali colleghi? L'Esco Radio. Ma tu cazzo, ma cosa potevo dire? Non mi aveva sgamato. Però per farli salire, io nel frattempo cosa ho fatto? Mi ho tolto tutta la roba che praticamente, cazzo, era tutta, ero già pirata, ero 20 anni pirata. Quindi mi ho tolto tutto e ho messo dentro l'armadio. Quando sono arrivati, lì non è quello che era giù, ho detto, mi scusi, ma così non si fa, insomma, ho iniziato un po' a, ci è rimasto male, bastava dire che era lei, noi dobbiamo solo fare un controllo, prego. Io mentre sono entrato in cameretta, vedi lo sportello dell'armadio, non te lo già lo sai che sta già arrivando, vedevo Fabio lo sportello dell'armadio che si stava gonfiando, ha detto, cazzo, ci negaggi, rubo a 3.30, tutto in terra, cazzo, un casino, e quindi mi appoggiavo, mi dica, i documenti, queste sono le sue radio, sì, e va più, un alimentatore da 120 ampere, il rosmetro grande, sono riuscito a togliere l'HF, se vuoi 4.30, altre cose, c'era il microfono a tavolo, e poi entravano 4-5 cavi alla finestra, io sempre mantenendo l'armadio, ci venga qua, ci faccia, ma poi mi faccia capire cosa ci fa questo baracchino con questo alimentatore così grande, e tu guardi quello trovato, io non so, e tutti questi cavi da dove arrivano? Da sul tetto, e quante antenne c'ha sul tetto? E ho detto un paio, io sto così, ha iniziato a controllare i cavi, a fare, si guardava a quell'altro, c'è qualcosa che non mi quadra, venga qua, come tenevo con la mano, va nei gaggi tutto in terra, ragazzi, meno male sono riuscito al volo a prendere il 430, resta che ho tutto in terra, ma c'è tutta questa roba, aspetti che appoggio questo, che questo è oro per me, che l'ho pagato un sacco di soldi, ecco perché serve l'alimentatore per questa radio, questo serve per questo, mi ha detto, non siamo messi bene, ho detto, lo so che non sono messo bene, fate voi, io sono CB, a me piace la radio e quindi devo avere tutte queste cose, purtroppo è così, comunque c'è la licenza del baracchino, tutto, si sono abbaidati in faccia, perché gli ho detto la verità, sono guardati in faccia, e ascolti, mi pare che eravamo a febbraio o marzo, aveva un freddo da lì, dice, a maggio ci sono gli esami per radioamatore, ti sto parlando del 1992, a maggio ci sono gli esami per radioamatore, lì va, intanto questa roba la tolga da qua e la conservi, facciamo solo per adesso un verbale di controllo, multa non l'hai fatta, no, noi torniamo, altro se mi bocciano, no, non si deve far bocciare, lei deve andare a studiare e prendersi la patente al radioamatore, quando ha preso la patente al radioamatore noi torniamo, e torna di zombie Fabio. Ci credo che sono tornati, ci credo, No, no, io non sono mai spinto così classico. In ascolto sì, Non so neanche se ho avuto apparecchi che insomma non potevo avere per ascoltare, però per riuscire mai è stata questa roba, mai. Ho avuto il focchese, ho fatto un portafoglio di 500.000 lire, così per provare, per girare, però voglio stare omologato, voglio stare in regola, mi dispiace. Omologato, non ho mai avuto niente di omologato, 20 anni in biratta, e boh. 20 anni di pirata, poi sono diventato allenatore, ma io sono diventato allenatore, sono voluto diventare allenatore per la detenzione delle radio, per non avere tue balle, perché veramente mi è andata molto bene. E lì ho conosciuto una persona che poi quando sono diventato allenatore, lui era già allenatore, non faccio nome, ma che mi ha sempre insomma consigliato quello devo fare. La cosa che poi ci abbiamo preso a ridere è perché quando io sono andato a vedere l'esame dell'allenatore, le patenti non erano unificate, c'era l'ordinaria, la speciale e l'ordinaria. Io ho preso la speciale inizialmente, no? La telegrafia l'ho data dopo. Quindi ero contentissimo, promosso primo, il W0 URT, promosso alla grande perché avevo studiato, ho preparato e sono andato per prendermela. Promosso, mi arriva la provvisoria, già con la provvisoria non puoi parlare, però facevo secondo operatore, insomma facevo due cosettine qui, soprattutto in V e in U. Un mese dopo, perché la provvisoria durava 3 mesi allora, poi ti mandavano la definitiva, dopo un mese sono venuti, io e poi ero contento, andavo in giornato. Chi è? Nesco Radio, ehi, salga, vi sto aspettando, metti giù entrati, vi faccio il caffè, tutto contento. Allora, io avevo ripiazzato tutto, avevo allora, nel frattempo, una truffa e l'altra, mi ero comprato 9,40, figurati, quindi dallo 4,30 l'ho baciato 9,40 e l'ho messo lì, poi c'avevo le V e le U e un ricevitore, mi pare. Lineare, ho sempre avuto, c'ho le foto. E allora, la patente, la licenza, pronti, W0 URT, non è attivo speciale, bimbomba, quindi adesso abbiamo le V e le U, sì, mi venga, come te le... No, allora non ci siamo capiti. Questa la deve togliere, ma scusi, sono l'animatore, no, ma lei le HF non le può usare, deve usare solo le V e le U, quando prende l'ordinario allora può riattaccare quello, cazzo, me l'ha fatto bugare, torna l'HF. Te l'hai cercata, hai voluto la patente, pedala, no? Infatti, poi ci siamo conosciuti bene con questo dirigente della scuola di essere in pensione da poco, ogni volta me lo ricordava, attivamente, se ne era parlata, c'era roba all'armadio, ti avevi abbigliato a capo, forse avresti messo a testa, mi diceva sempre, sì, cazzo, casini che ho combinato, per dire, se uno vuole fa, anche l'altra volta avevamo un discorso di norma c'è, omologazione di norma c'è, qui e là, a me della norma c'è, non me ne sbatte un par di palle, perché io a livello sperimentale posso usare qualsiasi tipo di baracchino, ok, anche se non è a norma c'è, mentre invece per i CB è consentita la norma c'è, quindi, allora, se ti vuoi salvare il culo e non vuoi che ti rompa le balle, vai e ti prendi la patente radiomatore, anche se non eserciti, però sei un radiomatore e puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, puoi usare tutti i baracchini che vuoi e non hai problemi, e questo era il motto, perché io con tutto quello che ho e ho avuto e con tutto quello che c'è sul tetto posso fare radiomatore senza nessun problema, ma non me ne fotti nulla, capito Fabio? Tino, ti sei addormentato? No, io sto smanettando, cercando, facendo, niente di che, e all'ascolto, non c'è problema, vai, continua, che ti ascolto. Sì, poi per ascoltare sono cose che già conosci, no? Sono cose che già conosci, quindi, no, io ho combinato tutti i colori, Fabio, veramente tutti i colori, di tutti i colori, però poi alla fine è tutto basta, cioè no, non si può stare in contratto a far renditi, fissando appuntamenti, dove mi ti trovi, dove sei, sto arrivando qui e là, non si può più fare una cosa del genere, siamo diventati grandi, prima era così, però io in radio ho sempre avuto quel carattere aggressivo, a volte anche troppo, maleducato, prepotente, ho avuto tutte le pecche, la verità, poi alla fine ho detto basta, perché non è che puoi stare sé più forte degli altri, ma non esiste proprio. E quindi io ho dato un taglio a tutto, ho tutto quello che mi serve, faccio un po' la parte amatoriale, un po' la parte CB, un po' sto anche mesi che non entro. Come viene viene, dai, come viene viene. Però ti posso dire che attrezzatura oggi, a oggi ne ho parecchie, kilowatt ne ho quando servono, radio non te ne dico perché non li conto neanche, HF, VHF, UHF, c'è una bella sala radio, Antonio già lo sa, fino lo stesso, però non sono più quello di prima, a volte non ho voglia di stare manco a ascoltare a Gigi Proietti, ma dimmi, capito, un nominativo normale. Perché no, avevi talmente scoglionato a casa, talmente stanco che ti bonichivi chi c'è, poi non mi interessa, spengo e vado a fare altro, capito? Vai Antonè, l'amico tuo c'è rimasto adesso, mi? Sì, ma l'unico sono stato io, guarda, a mettere la navigazione del Lupi in un FT250. Un di bichissimo che ti basi in piazza. Diamo il coro quando era ricevuto, dove era venuto Luca Lavresio con Coso. Diamo lo ricordo, diciamo, l'FT250 l'ho avuto anch'io, l'abbiamo avuto assieme, poi abbiamo avuto l'altro e se ne abbiamo avuto il radio. Però ti ripeto, Antonio, oggi no, non si può più giocare. Oggi se sbagli paghi, paghi malamente, perché io l'ultima volta che sono stato a una riunione c'era proprio questo discorso e hanno fatto una multa in provincia di Cagliari di 6.000 euro, tutta attrezzatura senza essere a norma CE, 6.000 euro, attrezzatura senza essere a norma CE, radio non omologate ma non a norma CE, licenza scaduta, un casino, gli hanno messo 6.000 euro di multa e l'hanno denunciato alla Procura della Repubblica, quindi non si scherza più, bisogna stare attenti, capito? Bisogna stare molto molto attenti, perché oggi le norme a livello c'è nelle telecomunicazioni sono molto importanti, se ti trovano, e attenzione soprattutto, attenzione, che sia la postale che l'escoradio sono nuovamente attivi. C'è stato un periodo che non se ne parlava più, erano in disarmo, sono arrivate 3 camionette nuove e sono nuovamente attivi per tutta la provincia di Sassari, per Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, sono nuovamente attivi. Quindi bisogna stare molto ma molto molto attenti. Sì, con i tipi che ci sono proprio, guarda. Oh yeah. Sì, ma già me lo sono preso l'apparecchio omologato, mancato c'è. Sono andato a parlare di cosa, di cuffie c'è dentro. Ma è lo schifo, cazzo. E così lo lascio, poi non me ne frega niente. Quando vengono, se lo guardano, anzi l'ho chiamato io lo scolario, anzi l'ho fatto chiamare io la verità. 5 giorni fa abbiamo fatto la riunione condominiale, ho filmato e in pratica arriva l'escopolse per togliere questo cazzo di ripetitore, perché non se ne può più qua. Sono più di un mese che io mi telefono a questo qua, ancora sto usando le baracchine, non sto usando le baracchine, sono più di un anno che non uso le baracchine, adesso basta, gli ho detto, non le bande piene. Qua ho detto, fai la riunione, firmo, non ho nessun problema. Ho preso il filmato, non mi è fregato niente, almeno abbiamo il tenente caviato, perché adesso basta, hai capito? Quando vengono a casa, l'apparecchio dentro la scatola, se lo piazzano, lo provano e io sono a posto, non ho nessun problema, la concessione ce l'ho fatta, quindi almeno ho finito. Non ce ne può più con questi ripetitori, da quando ho installato questi ripetitori di fronte a casa, neanche a 50 metri, io metto il test con i puntali senza agganciarli in nessun posto e mi segnalo 24 microvolts, quel test che c'è lo spimmi, figurati, quello bello verde, che professionale. strumenti puntali senza collegarli in nessun posto mi segna 24 microvolts. Quindi tu immaginati, io è già un periodo, a giorni soffro di mal di testa, che non ho mai, se mi metto proprio di fronte al televisore. Giovanna addirittura non riesce a usare il coso, a fare la videochiamata in terrazzino, perché leccare, cioè in pratica cade la videochiamata e non riesce a telefonare in nessun posto. I cellulari vanno per i fatti suoi, hai capito? Quindi a un certo punto questa storia deve finire, non so se sia 5G, se è 4G, quello che è, comunque questa rogna devono toglierla. Non me la futti nulla, ho detto guarda, è passata a casa, avevo sulle firme tutti nel condominio di qui, quindi adesso si arrangeranno, non me la futti nulla. Non so questi ripetitori. Sì, fatto a casa, lo so, dove ce l'ho per i ripetitori, insomma. L'avevo cambiato uno da poco, c'ho sul matto, quindi uno l'ho lasciato, l'altro l'avevo cambiato. Da quando avevo cambiato quello non avevo più niente io in TV. Ah, è vero, sopra il coso l'ho perso, ho perché l'ho felice. Ho capito, ho capito. Di sugar, è un casino fanno quelli, e lì bisogna salire di notte e mettere fuoco. Sopra l'hotel, no, secondo me, vabbè che è chiuso adesso l'hotel, ma in questo momento, forse non se ne parla manco di aprirlo ancora, oggi ho visto Tiziana, ha aperto e stava pulendo il bar, dice forse ci apriamo l'11 o forse il 18, se no sarà giugno mi ha detto, stasera. Per cazzo la petiziana, la faccio una gagliata, già apre. Ma lo già apre. Boh. Primo giugno, se tutto va bene, mia figlia non lavora al bar, così apre il 18. Allora faccio un brodo, vai. Di Durra Rossi. Racconta le mattonelle in piazza. Sì, Rossi, vedi? Di Calcegge, se non mi ricordo male. Di Calcegge, sì. Io a Cargeghe che devo andare, c'è una piazzetta lì di racconta le mattonelle, quando li accontate giri buone busciacchere di questa sassari, vai Fabi. Dura. Oggi ho preso la pasta da asporto al bar, capito? Perché da oggi hanno fatto le paste, però non per mangiare lì, ma te la danno, non fanno il caffè, ma da lunedì riprendono a fare il caffè, secondo me c'è quindi una gagata, giù. Ragazzi, dai, che io devo fare cosa al bimbo adesso. Sentiamo più tardi, se coincide, solo una mattina, Buonanotte, tante cose belle, divertitevela. Ciao T, dai, ci aggiorniamo domani mattina. No, io ho un paio di passaggi, in fondo siete qui mi colco. Domani mi vado a fare presto anch'io, anche se è domenica. Fabio, è una stronzata, ma ti pare che io me lo sto facendo a casa, a caffè, a colazione, mai ne ho fatto, ti giuro, mai e poi mai. Io tutti i santi giorni, al bar, caffè, o cappuccino, la pasta, sigaretta, giornale, dentro il bar, trovi l'amico, ti fermi, fai due chiacchiere, ma ti pare che io devo andare in un bar che fa l'asporto, no? Farmi fare caffè, uscirmene fuori, prendermi caffè e poi andarmene a casa. Ma mi rubato a casa che secondizioni. È lì il problema che ancora la gente non ha capito. Anche se si riparte a culo di scimmia, perché non si lavorerà mai più come prima. Capito? I bar lavoreranno con quei pochi pisquani che sono rimasti, con gli affezionados. Ma la vera clientela non ci sarà mai più, fino a quando non si riprenderà tutto alla normalità, tolte le mascherine, tolti i salvascarpe, tolte le tute, tolte i guanti, ok, virus non c'è più, è stato bello sognare, ecco là si riparte alla normalità, ma fino a quando continua questa pandemia, tu stai pur certo che i bar non lavoreranno più, perché nessuno, io per conto mio, io parlo per me, ma come me ce ne sono tanti altri che me l'hanno già detto, non si può andare a un bar, un caffè te lo devi prendere nella tazzina di plastica, uscire fuori, pigliarti un caffè, oppure se ti prendi anche la pasta la devi mangiare fuori in strada. Io non sono uno zingaro, per fare colazione a quei livelli sto a casa seduto tranquillo, mi prendo la mia briochina, i miei biscottini, mi prendo il caffè, mi fumo una sigaretta, vado a farmi una cagata e poi mi cambio e me ne esco in giro. Hai capito qual è il problema? Secondo te, io non mi sono abbonato alle merendine, alla ciliegia, non lo so perché ne ha preso qualcosa, mi sento incinta, ragazzi. Quelle della ciliegia, addirittura le ho mangiate tutte, le ho provate tutte, tutte quelle di Mulino Bianco, tutte quelle di Buitoni, tutte quelle di Misura, non ne piace una. Mi è piaciuta la merendina ciliegia del cornetto di MT. Ora la mia colazione è vista, mi alzo, voglio quella, cioè la cosa del bar, della pasta eccetera, o si fa in maniera cristiana, oppure mi butti nuda, meglio la merendina alla ciliegia. Non esiste, ma come te tanti altri lo stanno facendo, io non sono malato della pasta la mattina, però il caffè l'ho sempre preso, perché mi sono sempre stato molto presto per andare al lavoro e quindi prendi un caffè e basta. Non è detto che devo per forza mangiarmi la, però una frittella, una pesca, un cornetto, un qualsiasi cosa, è piacevole la mattina a colazione, e mi è passata anche quella voglia, tanto è vero che ho dimagrito tantissimo. Perché? Perché prendi un caffè la mattina, dai un'occhiata al giornale, io ce lo dico là vicino, ti fumo una sigarettina, ok, ed è quello che la colazione è fatta, già sono le 9 del mattino, non devo andare a fare la spesa, pronti, dammi l'elenco, esci e fai la spesa, rientri alle 10, già sei a metà mattinata, e fai qualche altra frontata, arriva a mezzogiorno, l'una, ti si da pranzo, io la sera non sono mai uscito perché non esco, mi piace uscire molto la mattina, e basta, quindi per me la mattinata è bruciata, è andata, capito? Ma i bar, ma cosa devi aprire? Il 18 devi aprire, ma se c'è, non abbiamo manco superato la soglia, siamo ancora a più dell'1,50, dobbiamo essere a 0,50, già c'è stata la dichiarazione del sindaco Campos che ha detto che non si apre sino a fine mese, di cosa apre il 18 Tiziano, va a dire alla Bassi di Beri e l'Inghisiria me. Infatti gli ho detto, ma dice abbiamo forse l'11 o 18, mi ha detto, sono il primo giugno, mi ha detto, stavo già facendo le modifiche, hai capito? Quindi figurati tu. Stasera, io sono, ho detto, va, tizia, lo vuoi consiglio, mi ha detto, va, elimina quella, l'autolavaggio, ci metti tutti di lavento, gli ho detto. Quando finiamo di berci il caffè e di berci la birra, ci passi il disinfettante sopra. Sì, Antonio, no, aspettate, c'era qualcuno voleva entrare. Eia, ma deve essere lui, Tomino, che gli ha detto fesserie, capito? Che poi lì è un baretto piccolino, quindi non puoi entrare manca due a due, devi entrare uno a uno, perché è un buco. Capito? Già lo sai, che è un buco. Quindi cosa poteva fare lui dall'inizio, da quando hanno detto che si poteva fare la sporta? Ecco, apri, lascia Tiziana solo, con le paste, senza superalcolici, senza birra, senza nulla, solo caffè. La mattina dai il servizio a tutti quelli che stanno lavorando in quella zona. Ecco, caffettino, vai fuori, c'è la pattumiera, ti bevi un caffè, ti mangi la pasta, ma lì c'è il posto anche fuori. Ok, non ti puoi fermare, però ti puoi appoggiare. Fai il caffè, te lo bevi, ciao a tutti, paghi e ti nanni. Ma lei riuscivano i soldi per pagare la dipendente, capito? Ma non è che apre il bar, nel modo più assoluto. No, non c'è trippa per gatti, no? Si parla del primo giugno per l'attività dei bar, capito? Così come i parrucchieri, i barbieri e così via, le estetiste, le sale relax e così via, non si possono aprire quelle. Già hanno fatto un casino con tutta questa gente, guarda tu a Milano, hai visto che c'è a Milano, tutti vendi colazioni, aperitivo lì all'Avviglio, ma cosa a fare sono? 300-400 persone tutte lì, tutte ammucchiate, ah così non diciamo più. Oh, forte, io sono la persona più intelligente del mondo, così a naso. Beh, se fai cose con la testa sì. No, perché ho visto il virus in Cina, ho detto, bah, quanto ci metterà ad arrivare in Italia? Un mese. Ci ha messo 40 giorni. Poi l'ho visto a Milano e ho detto, bah, quanto ci metterà ad arrivare in Sardegna? Una settimana. E ci ha messo 9 giorni. Lì, quando è arrivato, ho detto, bah, qui non usciamo fino a giugno. E tipo parlano di giugno, adesso. Ma se io, da stupido che sono, che sto premendo il tasto del microfono, la persona intelligente, no? Ho previsto tutto questo. Mi sto chiedendo, ma perché chi governa tutta questa cosa non l'ha prevista? Fabio, l'errore è stato, l'errore, che dalla partenza della Lombardia la regione sarda doveva subito prendere provvedimenti, perché lo sapevano. Da Milano il 60% dei milanesi, torinesi, genovesi, tutta l'Alta Italia ha tutte le seconde case in Sardegna, ok? Quindi la prima cosa da fare, siccome noi siamo una regione autonoma e possiamo farlo, non ci dovevano essere sbarchi per la Sardegna e noi saremmo stati tranquilli e sereni. Perché è iniziato Sassari e Olbia? Perché sono i punti di riferimento. Se tu consideri che Cagliari ha meno vittime e meno contagi, ha avuto meno contagi di Sassari e Olbia, ti ho detto tutto, che è il doppio, ok? Che Cagliari è il doppio di Sassari e di Olbia. Ha avuto meno contagi perché si sono organizzati in tempo. Se invece il Presidente della Regione faceva subito il decreto dove non si poteva sbarcare in Sardegna, tu vedevi che noi a quest'ora la Sardegna era tranquilla e serena, non aveva bisogno di nessuna restrizione. Io l'ho anche detto, solo che io non sono nessuno, Cami, e mi chiedo come mai non lo so, ma ci vuole davvero tanta intelligenza, cioè io secondo me mando veramente la manica di punti, ma di persone che veramente, cioè non sono fare di più due, che girano con le mutande al contrario perché la mattina non se ne sanno essere, io li vedo questi disegni, e non c'ho pretesa di essere io più intelligente della media, e io penso che loro siano molto sotto l'intelligenza media, capito? Non sono io più, secondo me sono loro molto meno, io lo vedo così, non lo so, sono scemo, boh. Sono peggio, ti aggiungo che sono peggio, Fabio, perché stamattina Eugenio, che lavora al porto, lavora a Porto Torres, insomma, ed è abbastanza a contatto, mi ha detto, Claudio, perché l'ho chiesto, stamattina ha lavorato, sì, ho fatto la nave, è arrivata la nave dalla Spagna, con un carico di spagnoli che sembravamo d'estate, ma adesso dico io, certo tu fai entrare una nave spagnola a Porto Torres, facendoli sbarcare, nella seconda fase in cui siamo, che è quella più delicata, tu fai arrivare una nave dalla Spagna, ma che cazzo ce l'hai la testa? Secondo me qua a testa non ne ha più nessuno, noi non uscimo più. Non usciamo più davvero. E poi ci pensiamo che forse possiamo aprire il bar al 20%, il parrucchiere al 10% con gli appuntamenti a partire da luglio. Cioè, ma anche io, mica sono messo mai i capelli, mica, mica il giorno che hanno chiuso tutto, io dovevo andare alla barriera, a Luglia, stavo quasi parcheggiando, ho capito com'è la cosa, invece mi sono dovuto occupare di recuperarmi un foglio perché dovevo tornare a stare la mamma, cioè la residenza Olbia. Ero lì, già davanti a Ivan, in pratica, al telefono, eccetera, Ivan mi ha visto, mi ha fatto ciao e mi ha indicato dopo, no, col dito, passa dopo, e io gli ho fatto il pollice alzato, quindi lì è, dopo ci passo, ma ero in ritardo perché ero già 3 settimane che dovevo andarci, adesso sono quanto sono passati di chiusura di tutto da giugno di marzo, ma comunque sia, io da barbiere, anche se la legge mi dice che ci possa entrare col tappettino rosso, con tutte le cose che servono, eccetera, per il tipo di contatto che si ha, comunque sia, io da barbiere non ci vado, meglio mi piglio la macchinetta per i cani e mi butto a tipo tosa più la Yorkshire, capito? No, esiste, ma ti pare che vado io al banale barbiere, io ne ho pochi capelli. C'ho la macchinetta e ogni 15 giorni me li faccio. Ogni due settimane, capito? Passo la macchinetta leggera, mi lascio quelli che servono e basta, ma ne ho pochi. Assolutamente. Anch'io prima andavo al barbiere per farli in una certa maniera, per farli un po' più curati. Però ho imparato, dietro me li fa mia figlia, io me li taglio come devono essere tagliati, non ci vado più. Non ci vado, fino a quando non saranno finite queste restrizioni, ci sarà veramente il 100% delle aperture. Come fai tu andare a prendere appuntamento al barbiere a uno a uno? Ma lo già ne so, io chi c'era seduto nella sedia, con cosa gli eravate i capelli, con cosa lo tocchi, con cosa non lo tocchi, ma a me non me la fotti nulla di igienizzare, igienizzazioni e quant'altro, non me ne frega più niente, io non vado più da nessuna parte, per me i bar possono chiudere, i barbieri possono chiudere, io ormai mi sono abituato a stare a casa, anche perché sono a casa già da 2 anni, quindi stare a casa, a fare le mie cose, mi sono abituato. E ti posso dire che queste restrizioni, questa quarantena che abbiamo fatto un po' tutti, a me mi ha segnato un bel di cose, perché non solo di dimagrire, di mettermi a dieta, di stare un po' più sereno e tranquillo, ma stai anche meno in giro, hai meno problemi, hai meno spese, hai meno tutto. Io ho imparato così, mi passo la mattinata cercando di combinare qualcosa, più o meno, c'ho il cane, sto col cane, me ne sto un po' giù col cane, parlo con i miei vicini, eccetera, però non me ne fotti più nulla, mi sono abituato ormai Fabio, quindi per me non cambia niente, che aprono o non aprono, mi dispiace solo per mia figlia perché lì c'è un'attività appunto da portare avanti, però se non le danno l'ok non può fare niente, quindi quello mi dispiace, però per me non me ne fotti più nulla, mi sono abituato e va bene così. Facciano quello che vogliono fare, io non di certo vado a prendermi il Covid-19 per andare al barbiere o per andare da altre parti, tutto qua. Vai Antonio. Comunque quello l'abbiamo passato tutti, se ti fai proprio i conti con i conti, là. Devi contare questo, allora quel virus c'era già da ottobre. Siccome un sacco di gente ha avuto una bronco polmonite di questo inverno qua, nessuno se ne è mai reso conto, hai capito? L'ha già passata, quindi se vado a farci il tampone, più di uno risulta positivo, te lo dico io a Sassari, anche se non c'ha sintomi. Il discorso è quello, perché è stato tenuto nascosto. Se avevo detto già la prima da ottobre, questa storia sarebbe finita, ma minimo dicembre o gennaio. Invece sono stati tutti zitti e nessuno ha detto niente. Fino a loro sono arrivati morti, il discorso è quello lì. Comunque questo virus c'è da ottobre dell'anno scorso, figurati tu. Io ho passato una bronchite, ma anzi prima ha passato Giovanna addirittura, lì a Pizzicotto, una bronchite allucinante, febbre forte, 38, quasi 40, con tosse e cose del genere, dopodiché l'ha attaccata ai bambini, dopo le bambine l'ha attaccata a me, poi ci sono passato anch'io, dopo io ci sono passato a Simone e cose del genere, quindi ce l'abbiamo tutti. Se ci metto il tampone, se da quello andiamo tutti a casa, te lo dico io. Era l'unico metodo. Che cosa, Antonio? Che questa storia qua esiste già da ottobre, hai capito? Questa influenza, che ci hanno fatto passare per influenza, era più che altro quello lì, hai capito? In modo lieve, però l'abbiamo passata, hai capito? Io ci ho rimesso, come si chiama, ci ho rimesso la verità quella, perché in pratica ho fatto tosse, febbre e quelle cose, adesso mi ha detto, dice, prendi tachipirina e prendi antinfiammatorio assieme, mi ha detto, prendo quei due e non prendo, cazzo, la medicina per la tosse, cazzo. Ma crepato, sono venuto là pronto soccorso perché l'ho preso alle 8 e mezzo del mattino e mi ha crepato le venire dell'occhio, su figura che la persona mi ha salvato, la persona amarete, sono andato via pronto soccorso a mezzanotte e questo imbecille dice no, Sì, qui non ci vuole venire perché lei non c'ha niente, già li passa da solo, mi ha detto. Sì, comunque, cioè, una storia strana, cioè mio medico mi ha detto, mi ha fatto riflettere su una cosa interessante, che c'è la possibilità che dai primi di gennaio, prima io, poi lui, poi la compagna, poi il figlio, ce lo siamo presi perché abbiamo avuto qualche problemino un po' tirato, ci siamo un po' curati, di sequenza così, e secondo lui siamo positivi. Ma non hai fatto il tampone? No, non l'ho fatto, l'ha fatto lui, praticamente adesso deve fare il sierologico, però c'erano problemi con il sierologico perché non stava funzionando, non era affidabile. Sono arrivati alle regioni una serie di tamponi e una serie di cose.